Capitolo 11. Confidenze. Per la fine di agosto Anna era ancora una volta la stessa di sempre, sperando in un felice autunno. La piccola Berta Marilla cresceva in bellezza di giorno in giorno ed era un centro di culto e di adorazione dei fratelli e delle sorelle. Pensavo che un bambino sarebbe stato qualcosa che solo urlava tutto il tempo, disse Gem estasiato, lasciando che le minuscole dita gli si aggrappassero intorno alle sue. Bertie Shakespeare Drew mi aveva detto così. Oh, io non dubito che i bambini Drew urlino tutto il tempo, Gem caro, disse Susan. Urlano al pensiero di dover essere un Drew, suppongo, ma Berta Marilla è una Ingleside, Gem caro. Vorrei essere nato qui, Susan, disse Jem malinconicamente. Lui era molto dispiaciuto di non essere nato a Ingleside e Dee glielo rinfacciava spesso. Non trovi la vita qui piuttosto noiosa? Le aveva chiesto un giorno una vecchia compagna di classe della Queen's, proveniente da Charlottetown con un po' di spocchia. Annoiare? Anna le aveva quasi riso in faccia. Ingleside noiosa, con una deliziosa bambina che portava nuove meraviglie ogni giorno, con le visite di Diana e della piccola Elisabetta e Rebecca Drew, che aveva progettato con la signora Sam Allison di Upper Glen nelle mani di Gilbert, con una malattia che solo tre persone al mondo avevano avuto prima. Con Walter che iniziava la scuola, con Nan che aveva bevuto una bottiglia intera di profumo presa dalla toeletta di sua madre. Tutti pensavano che sarebbe morta, ma invece non le fece assolutamente nulla. E con uno strano gatto nero che, senza precedenti, aveva avuto 10 gattini nella veranda sul retro. Con Shirley che si era chiusa in bagno dimenticando come fare per riaprire. E col gatto gamberetto trovato avvolto in un foglio di carta moschicida. E con la zia Mary che aveva dato alle fiamme le tende della sua stanza nel cuore della notte mentre si aggirava con una candela e svegliando la famiglia con urla spaventose. Vita noiosa! Zia Mary era ancora Ingleside. Di tanto in tanto diceva pateticamente: Quando sei stanco di me, fammelo sapere, sai, sono abituata a badare a me stessa. C'era solo una risposta e naturalmente Gilbert continuava a ripeterla, anche se non con altrettanto entusiasmo di quando era arrivata. Anche in Gilbert il senso della parentela stava cominciando a diminuire e si stava rendendo conto della sua impotenza, vedendo in modo tipico di un uomo, come avrebbe detto Miss Cornelia, arricciando il naso, che zia Mary stava diventando un problema in casa sua. Un giorno si era azzardato a fare una piccola allusione su come le case possano subire dei danni se si lasciano troppo a lungo disabitate, e zia Mary fu d'accordo con lui. Con calma commentò che stava pensando di vendere la sua casa a Charlottetown. Non è una cattiva idea, la incoraggiò Gilbert. So di una villetta molto graziosa che è in vendita qui in città. Un mio amico sta andando in California. È molto simile a quella che ammirava così tanto, dove abita Mrs. Sarah Newman. Ma vivere sola, sospirò zia Mary. A lei piace, disse Anna fiduciosamente. C'è qualcosa che non va con chi ama vivere da solo, Anna, disse zia Mary. Susan represse con difficoltà un gemito. Diana venne per una settimana nel mese di settembre, poi arrivò la piccola Elizabeth. Piccola Elizabeth non più, perché adesso era alta, snella, stupenda Elizabeth, ma sempre con i capelli d'oro e il suo malinconico sorriso. Suo padre stava tornando al suo ufficio di Parigi ed Elizabeth andava con lui per accudire la casa. Lei e Anna fecero lunghe passeggiate lungo le leggendarie coste del vecchio porto, tornando a casa sotto le tranquille vigili stelle autunnali. E rivissero l'antica vita di Windy Willows e dei loro passeggi nella mappa del paese delle fate, che Elizabeth aveva ancora intenzione di conservare per sempre. Appeso al muro della mia stanza, o dovunque vada, disse. Un giorno il vento soffiò attraversando il giardino di Ingleside, il primo vento di autunno. Quella sera il rosa del tramonto era qualcosa di austero. Improvvisamente l'estate era invecchiata. E venne la nuova stagione. È presto per l'autunno, disse zia Mary con un tono che insinuava che l'autunno l'aveva insultata. Ma l'autunno era troppo Troppo bello. C'era la gioia dei venti che soffiano da un golfo blu scuro e lo splendore dei pleniluni. C'erano lirici astri nella conca e bambini che ridono in un frutteto carico di mele. Chiare e serene serate sui pascoli di alta collina di Upper Glen e argentei cirri con uccelli palustri che ci volano attraverso. E come le giornate si accorciano e le rare grigie nebbie si radunano sulle dune e sul porto. Con la caduta delle foglie, Rebecca Dew arrivò a Ingleside a fare la visita promessa da anni. Era venuta per una settimana, ma era stata convinta a rimanerne due. Nessuno era così convincente come Susan. Susan e Rebecca Dew sembravano aver scoperto a prima vista che erano spiriti affini. Forse perché entrambe adoravano Anna, forse perché entrambe odiavano zia Mary. Una sera in cucina, mentre fuori la pioggia gocciolava sulle foglie morte e il vento gridava attraverso la grondaia agli angoli di Ingleside, Susan riversò tutte le sue sventure sulla comprensiva Rebecca Dew. Il dottore e la moglie erano usciti per fare una visita. I piccoli erano tutti nei loro caldi lettucci e zia Mary fortunatamente aveva uno dei suoi soliti mal di testa, proprio come un anello di ferro attorno al mio cervello, disse gemendo. Ah, chiunque, osservò Rebecca Dew, aprendo la porta del forno e depositando comodamente i piedi dentro, mangia molto sgombro fritto come ha fatto quella donna a cena, merita di avere un mal di testa. Non nego che ho mangiato la mia parte, devo ammetterlo, Miss Baker. Non ho mai conosciuto nessuno che riesce a friggere gli sgombri come te, ma non ne ho mangiati quattro pezzi. Miss Dew, cara, disse Susan seriamente, mettendo giù il lavoro a maglia e fissando implorante dentro i piccoli occhi neri di Rebecca. Hai visto qualcosa di ciò che è Mary Blight dal momento che sei arrivata qui, ma tu non sai la metà, no, e neppure un quarto. Miss Dew, cara, sento che posso fidarmi di te, posso aprire con te il mio cuore con la massima riservatezza. Puoi, Miss Baker. Quella donna è venuta qui a giugno ed è mia opinione che voglia soggiornare qui per il resto della sua vita. Tutti in questa casa la detestano, anche il dottore non ha più bisogno di lei adesso, ma nasconde quello che pensa veramente. È una Blight e ha detto che la cugina di suo padre non deve essere fatta sentire indesiderata nella sua casa. Ho chiesto, disse Susan in un tono che sembrava indicare che lo aveva fatto in ginocchio, ho pregato la signora dottora di puntare i piedi e dire che la zia Mary Blight doveva andarsene. Ma la signora dottora è troppo tenera e così siamo impotenti, Miss Dew, completamente impotenti. Mi piacerebbe occuparmi io di lei, disse Rebecca Dew, che pure lei aveva notevolmente sofferto per alcune delle osservazioni della zia Mary. Lo so. Come chiunque altro, Miss Baker, che non possiamo violare il rispetto dell'ospitalità, ma ti assicuro, Miss Baker, che se mi fosse permesso, io avrei già chiarito la situazione. Potrei occuparmi di lei se non conoscessi il mio posto, Miss Dew. Non dimentico mai che io non sono la padrona qui. A volte, Miss Dew, dico solennemente a me stessa, Susan Baker, sei o non sei uno zerbino? Ma sai, ho le mani legate, non posso abbandonare la signora dottora e non devo aggiungere ai suoi problemi altri problemi, lottando io con la zia Mary Blight. Continuerò a cercare di fare il mio dovere perché, Miss Dew, cara, disse Susan solennemente, potrei morire allegramente sia per il dottore che per la moglie. Eravamo una così felice famiglia prima che lei venisse qui, Miss Dew. Ma lei sta facendo diventare la nostra vita infelice e ciò che ne risulterà io non lo posso dire, non sono una profetessa, Miss Dew, o piuttosto posso dire che finiremo in manicomio. E non è solo una cosa, Miss Dew, sono tante cose, Miss Dew, centinaia, Miss Dew. Si può sopportare una zanzara, Miss Dew, ma pensa a milioni di loro tutte insieme. Rebecca Dew pensò a quella moltitudine di zanzare e scosse dolorosamente la testa. Dice sempre alla signora dottora come gestire la sua casa e quali vestiti deve indossare. Lei sta sempre a controllarmi e dice che non ha mai visto dei bambini così litigiosi. Miss Dew, cara, hai visto tu stessa che i nostri bambini non litigano mai? Beh, quasi mai. Oh, sono tra i bambini più ammirevoli che abbia mai visto, Miss Baker. Controlla e va in giro a spiare. Ah, io l'ho colta sul fatto, Miss Baker. È sempre offese con il cuore infranto per qualcosa, ma mai che si offenda abbastanza per andarsene. Si siede senza fare niente, sembrando sola e trascurata fino a quando la povera signora dottore è pressoché distratta dal lavoro che stava facendo. Nulla le va bene. Se una finestra è aperta, si lamenta delle correnti d'aria. Se sono tutte chiuse, dice che ci vorrebbe un po' d'aria fresca ogni tanto. Lei non sopporta le cipolle, non riesce nemmeno a sopportare il loro odore. Dice che la fanno star male. E così la signora dottore ha detto che non dobbiamo usarle. Ora, disse Susan pomposamente, se le cipolle possono essere un volgare piacere, Miss Diucara, noi tutti ci dichiariamo colpevoli a Ingleside. Ho veramente un debole per le cipolle, ammise Rebecca Diu. E non sopporta i gatti, e dice che i gatti le danno la pelle d'oca, e non fa alcuna differenza se li vede o no. Solo sapere che ce n'è uno sul posto è abbastanza per lei, cosicché il povero gamberetto non osa mostrare il suo muso in casa. Beh, non ho mai voluto gatti, Miss Dew, ma io sostengo che hanno il diritto di sventolare le loro code. E poi, Susan, non dimenticare mai che io non posso mangiare le uova, per favore. Oh, Susan, quante volte devo dirti che non si può mangiare un toast freddo? Oh, Susan, alcune persone potrebbero essere in grado di bere il tè troppo infuso, ma io non sono in questa categoria fortunata. Tè? Troppo infuso, Miss Dew. Come se fossi in grado di offrire a qualcuno del tè troppo infuso. Oh, nessuno può pensare di te una cosa del genere, Miss Baker. Se c'è una domanda che non dovrebbe essere fatta, lei la fa. È gelosa perché il dottore dice le cose prima a sua moglie che a lei e cerca sempre di raccogliere notizie sui suoi pazienti da lui. E nulla lo può esasperare di più, Miss Dew. Un medico deve saper tenere la bocca chiusa, come ben sai. E la sua ira sul fuoco? Susan Baker, lei mi dice, spero che tu non accenderai il fuoco usando l'olio per le lampade o che lasci stracci unti in giro, Susan. È risaputo che possono provocare una combustione spontanea in meno di un'ora. Come ti sentiresti e come puoi guardare la casa che sta bruciando, Susan? Beh, cara Miss Dew. Su questo ho avuto parecchio da ridere, perché fu quella stessa notte che la zia Blythe incendiò le sue tendine e le sue urla mi risuonano ancora nelle orecchie. Proprio quando il povero dottore si era appena addormentato dopo 2 notti insonni. Una cosa che mi fa infuriare, Miss Dew, è che prima di andare da qualche parte va nella mia dispensa e conta le uova. Ci vuole tutta la mia filosofia per astenermi dal dire perché non conta anche i cucchiai. Naturalmente i bambini la odiano. La signora dottora giusto cerca di trattenerli dal mostrarlo. Addirittura schiaffeggiò Nan un giorno in cui il dottore e la signora dottora erano via entrambi. La schiaffeggiò solo perché Nan l'aveva chiamata Mrs. Mefusalè. L'aveva sentito dire da quel diavoletto di un Ken Ford. Oh, mi piacerebbe schiaffeggiare lei, disse Rebecca Diu velenosamente. Le ho detto che se avesse mai fatto ancora una cosa simile, io avrei schiaffeggiato lei. Una sculacciata occasionale c'è sempre stata a Ingleside, ho detto, ma schiaffi mai, che se lo metta bene in testa. È rimasta imbronciata e offesa per una settimana, ma almeno non ha mai avuto il coraggio di alzare un altro dito su di loro da allora. Lei è contenta quando i genitori li puniscono, però. Se fossi tua madre, disse al piccolo Jem una sera, oh, non potrai mai essere la mamma di nessuno, disse il povero bambino, indotto a ciò, Miss Dew, assolutamente indotto a dire così. Il dottore lo mandò a letto senza cena, ma chi supponi, Miss Dew, vista la scena, che ha portato di nascosto su qualcosa per lui? Ah già, chi? Ridacchiò Rebecca Dew, entrando nello spirito del racconto. Ti si sarebbe spezzato il cuore, Miss Dew, nell'ascoltare la preghiera che ha detto poi, tutto per conto proprio. Oh Dio, ti prego di perdonarmi per essere impertinente con la zia Mary. Oh Dio, ti prego, aiutami ad essere sempre molto gentile con la zia Mary. Avevo le lacrime agli occhi. Povero tesoro. Io non ho l'irriverenza o l'impertinenza dei bambini, Miss Dew cara, ma devo ammettere che quando Bertie Shakespeare Drew un giorno le gettò addosso una pallina di carta biascicata e le mancò il naso solo per un pollice, Miss Dew lo intercettai al cancello sulla strada di casa e gli diedi un sacchetto di ciambelle. Naturalmente non gli ho detto perché. Lo stuzzicavano parecchio, le ciambelle non crescono sugli alberi, Miss Dew. E Mrs. Seconda Scrematura non le fa mai. Nan e Dee, beh, io non fiaterei ad anima viva, ma a te, Miss Dew, posso dirlo. Il dottore e sua moglie, neanche se lo sognano, metterebbero fine alla cosa. Però Nanedi hanno chiamato la loro bambola di porcellana antica, quella con una fessura sulla testa, zia Mary, e ogni volta che le rimprovera escono e la annegano. E la bambola, voglio dire, la annegano nella botte di acqua piovana. Ci siamo divertite molto durante l'annegamento, ti assicuro, ma non si può credere a quello che quella donna ha fatto l'altra notte, Miss Dew. Oh, posso credere a qualunque cosa ormai, Miss Baker. Non voleva mangiare un boccone per cena, perché i suoi sentimenti erano stati feriti per qualcosa. Ma prima di andare a dormire, andò di nascosto nella dispensa e finì di mangiare il pranzo che avevo lasciato per il povero dottore, fino all'ultima briciola, Miss Dew cara. Oh, spero che tu non mi consideri una miscredente, Miss Dew, ma non riesco a capire perché il buon Dio non si stanca di alcune persone. Oh. Non permetterti di perdere il tuo senso dell'umorismo, Miss Baker, disse Rebecca Dew con fermezza. Oh, io sono ben consapevole che c'è il lato comico in un rospo sotto un erpice, Miss Dew, ma la domanda è cosa vede il rospo? Mi spiace se ti ho disturbata con questo mio sfogo, Miss Dew cara, ma è stato un grande sollievo. Non posso dire queste cose alla signora dottora e ho avuto recentemente la sensazione che se non trovavo uno sfogo sarei scoppiata. Conosco bene quella sensazione, Miss Baker. E ora, Miss Dew, cara, disse Susan alzandosi bruscamente, che ne dici di una tazza di tè prima di andare a dormire e una coscia di pollo freddo, Miss Dew? Oh, non ho mai negato, disse Rebecca Dew, tirando fuori dal forno i suoi piedi ben cotti, che pur non dimenticando le cose più elevate della vita, il cibo con moderazione è una cosa piacevole.